Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben trovati a Salva Danaio, buon inizio settimana a tutti. Beh, per la verità quello che affrontiamo questa mattina è un tema così, insomma, che non ci voleva, una nuova emergenza. Al momento sembra ancora abbastanza circoscritta in Messico, però insomma la paura è che si trasformi in qualcosa di più preoccupante, speriamo di no, e l'auspicio è che questa emergenza non si trasformi più che altro in una psicosi, ma di certo la crisi da influenza da suini sta provocando un allarme generalizzato in termini sanitari, e tra un po' cominceremo, come spesso capita in circostanze simili, anche a quantificare qualche danno economico. Noi oggi a Salva Danaio ci focalizziamo proprio su questi aspetti. Perché? Perché naturalmente le aree colpite da questa crisi sono zone molto frequentate dal punto di vista turistico, e proprio nelle ultime ore sul sito del Ministero degli Esteri viene rivolto un invito piuttosto esplicito alle persone che intendono recarsi nelle zone interessate all'allarme. In pratica la Farnesina suggerisce di congelare al momento ogni spostamento. E allora, come stanno gestendo questa situazione i tour operator, le agenzie viaggi, e se siamo in procinto di partire per questa zona perché magari abbiamo organizzato da tempo un viaggio per stare in una zona del Messico, ce ne sono di bellissime, per 10-15 giorni, magari anche un viaggio lungamente programmato e che adesso non abbiamo più voglia di fare, perché è anche naturale, no, che si possa fare una marcia indietro in un frangente delicato come questo. Allora, come ci comportiamo, che cosa chiediamo anche magari al professionista del settore al quale ci siamo rivolti? Sentiremo stamattina i suggerimenti delle associazioni dei consumatori, come bene proteggersi anche in via preventiva per evitare situazioni di questo tipo, anche se è un po' come lo tsunami della Thailandia di qualche anno fa, insomma non è che poi si possano prevedere con anticipo, anzi in maniera più assoluta, anche perché insomma qui c'è un altro aspetto da considerare. Stiamo parlando di località che non sono certo precarie mediamente dal punto di vista dell'igiene e della sanità, per cui una situazione del tutto inedita che adesso stanno pagando alcuni turisti. Come devono comportarsi stamattina lo capiremo e cercheremo di farci dare qualche indicazione utile e pratica da Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel, da Alberto Corti, direttore di Feder Viaggio Confturismo, e dall'avvocato Carmelo Calì, che è rappresentante del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti nel Comitato Tutela Diritti del Passeggero presso l'ENA, che è responsabile trasporti di Confconsumatori, comunque un rappresentante di una grande associazione dei consumatori che si occupa esplicitamente di tutela appunto dei viaggiatori e quindi in questo caso di turisti. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione se volete fare con noi qualche commento su questa situazione. Magari avevate già in mano un biglietto per partire e anche un viaggio ben organizzato in un villaggio turistico di queste aree. Cosa intendete fare a questo punto? Potete chiamarci, cercheremo insomma così di fare una valutazione anche della vostra situazione. Pensate che abbiamo trovato una statistica. Ogni anno sono in media 250.000 viaggiatori italiani che scelgono le mete del Messico. Nel 2007 sono stati anzi 280.000. L'Italia è uno dei principali mercati europei del Messico. In media una famiglia italiana sceglie di soggiornare in Messico, se sceglie questa meta, una decina di giorni. Complessivamente i turisti internazionali che ogni anno approdano in Messico sono 19 milioni, per cui pensate anche di che cosa stiamo parlando. E allora abbiamo già in linea con noi intanto l'avvocato Carmelo Calì. Avvocato, buongiorno. Buongiorno a voi, vi ascolto. Grazie di esserci venuto in soccorso, anche perché abbiamo riorganizzato la trasmissione proprio questa mattina. Grazie anche di essere con noi ad Alberto Corti, direttore di Feder Viaggio. Dottor Corti, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. E adesso tra un po' raggiungeremo anche Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel. Volevo subito sentire Alberto Corti di Feder Viaggio, perché qui abbiamo in sostanza l'associazione che rappresenta i tour operator, e le zone del Messico sono zone in cui molti tour operator sono presenti in maniera massiccia da tanto tempo. Che cosa vi dicono i vostri operatori sul posto, dottor Corti? Ma per fortuna le notizie che giungono dagli assistenti, da coloro che si occupano dei nostri turisti in loca, sono notizie abbastanza positive. Non ci sono particolari allarmismi, anche perché l'informazione locale è gestita in un modo da non dare adito a panico. In realtà le zone turistiche parlo soprattutto delle zone a sud di Cancun fino ad arrivare a Tulum, dove si sviluppa la maggior parte del turismo balneare in questo periodo, sono zone estranee al fatto che si sta verificando, che riguarda la Città del Messico e zone a nord del paese. Però è altrettanto vero che è importante monitorare la situazione, non solo secondo le indicazioni che arrivano dalla Farnesina, ma soprattutto anche dando informazioni corrette a chi si trova in loco. Diciamo che in questo momento le maggiori preoccupazioni sono per le telefonate dei connazionali, dei parenti dall'Italia, che chiamano per avere notizie sullo stato di salute dei parenti che si trovano. Quindi, insomma, in qualche modo mi sta dicendo che magari i turisti che sono già là, quelli che sono in zone tranquille, sicure, dove questa emergenza, dove questa influenza non si è propagata, addirittura non hanno la percezione di quanta risonanza il problema ha avuto invece in tutto il resto del mondo? Come di solito avviene accade in questi casi, diciamo che poi comunque c'è un orientamento a godere la vacanza e di conseguenza anche magari a guardare un po' meno la televisione, sentire un po' meno la radio, leggere quello i giornali. È vero, infatti, altrimenti non sarebbe una vacanza. Detto questo, però, il tema è che mentre fino a 2 giorni fa avevamo una 20ina di morti in Messico, sono già diventati più di 100 e ci sono oltre 1600 casi di contagio già segnalati, quindi il tema è che comunque quest'influenza poi si propaga ovviamente secondo determinate modalità, seguendo le più scrupolose regole igieniche si può evidentemente evitare, ma non è detto, per cui dato anche la modalità con cui questo virus si sta estendendo è chiaro che poi magari non sarà adesso, non sarà domani mattina, ma fra un paio di giorni chi sta facendo un lungo soggiorno prima o poi verrà raggiunto dalla notizia e allora lì il tema è anche chi viene colto dalla paura e vuole ritornare indietro, che cosa deve fare, come gestiranno questa situazione i tour operator, le agenzie viaggi. Volevo sentire su questi punti anche Andrea Giannetti, presidente di Asso Travel. Anche le vostre agenzie in queste ore sono così, insomma, intasate di telefonate per cercare di fare un punto della situazione dettagliato. Giannetti, non ci sente il presidente di Asso Travel? Pronto? No, evidentemente no, allora lo recuperiamo, non è un problema, è in viaggio anche lui. Avvocato Calì. Allora, qua ce ne abbiamo come sempre per le associazioni dei consumatori, insomma, i temi per affrontare le cose, insomma, non vi mancano mai. Allora, ammettiamo di avere a che fare in questo momento con una famiglia che aveva così organizzato la sua vacanza di 15 giorni in una località del Messico, che magari non è stata raggiunta in questo momento da questa emergenza, però si è spaventata, giustamente, la notizia l'ha ricevuta e vuole tornare indietro e vuole interrompere a metà la sua vacanza. Secondo lei che cosa deve aspettarsi da un tour operator comprensivo e serio? Ma diciamo che in linea di massima, sia che la vacanza sia iniziata che non è iniziata, noi possiamo avere come punto di riferimento una sentenza della Corte di Cassazione relativamente recente, che è del 2007, nel luglio, che ha fissato un principio ben preciso e che si può adattare a questo caso concreto. In quell'ipotesi si trattava di una vacanza di 2 settimane a Cuba, dove vi era in atto sull'isola un'epidemia di dengue emorragico. In questo caso, quindi, diciamo che potremmo quindi paragonare a quella attuale, la situazione attuale nella quale ci troviamo, la Cassazione ha detto che poiché lo scopo del pacchetto tutto turistico e tutto compreso è proprio la finalità turistica, cioè io parto per farmi le vacanze, a questo punto ha ritenuto che anche se non vi è una previsione legislativa di estinzione del contratto, ha ritenuto come una ipotesi di scioglimento del contratto totale o parziale e quindi ha accolto la domanda dei passeggeri e dei turisti che volevano la risoluzione del contratto. Questo che significa? Che il contratto può essere sciolto e che quindi il turista non ha l'obbligo di partire. Ancor più io dico quando nella situazione attuale vi è stato un chiaro invito del Ministero degli Esteri a non partire. Mi permetto di criticare la posizione della rappresentante dei tour operator di poco fa, perché il criterio l'oggettivo di riferimento non può essere dato dalla percezione che il turista ha in questo momento, perché proprio il turista, per quello che può essere il tipo di vita che sta conducendo, magari potrebbe non ascoltare il giornale male, no? Beh, questo lo ha ammesso il dottor Corti, naturalmente, perché altrimenti non sarebbe una vacanza. No, questo adesso lo ha detto, magari le era sfuggito. Detto questo, però, ecco, sulla base di quello che ci diceva lei, sulla base di una sentenza della Corte di Cassazione, insomma, un contratto in circostanze di questo genere deve poter essere risolto in via del tutto serena. Esatto, però il dottor Corti, ci ho fatto una chiacchierata naturalmente prima della trasmissione, ci diceva adesso, a prescindere dal fatto che se poi proprio uno non vuole partire, si è spaventato, gli si è rovinata tutta il clima vacanziero, è un conto. Ci sono però anche delle soluzioni alternative, non far perdere completamente la vacanza, Corti, ed eventualmente studiare una soluzione diversa, magari individuare una meta diversa. E in questo caso, per esempio, come si agisce? Nel senso che se una famiglia viene da lei, non è ancora partita, anche se poi con l'avvocato io avevo citato il caso di chi è già là e vuole tornare anticipando la fine della vacanza, ma qualora non si fosse ancora partiti, come vi ponete? Nel senso che cercate di individuare delle soluzioni che comunque abbiano come obiettivo finale il Messico, per esempio, o comunque si possono studiare anche soluzioni alternative in termini geografici di scelta della destinazione? No, certo, allora, soluzioni alternative che abbiano come destinazione il Messico, ma proprio per quello che abbiamo detto prima, cioè a fronte di un avviso della Farnesina che, lo ripetiamo, sconsiglia i viaggi su aree del Messico e non su tutto il paese che non sono aree oggetto del nostro turismo, però è altrettanto vero che se il turista è spaventato e si reca da noi e non è possibile andargli a proporre un'altra destinazione messicana, perché saremmo punto da capo. Allora è chiaro che in questo momento l'atteggiamento, proprio alla luce della sentenza 16.315 che citava prima l'avvocato, che conosciamo perfettamente, è proprio quella di prendere atto della volontà manifesta del cliente di fruire di una vacanza e non di una vacanza sotto la spada di Damocle di un dubbio che quantomeno rovinerebbe l'ambito di questa vacanza. Di conseguenza, destinazioni alternative sono quelle che in questo momento vengono offerte, anche perché il cliente in realtà chiede comunque di poter partire, di non partire per quella destinazione lì, perché le vacanze le ha già prese, le ferie sono pronte, le valigie sono pronte, eccetera eccetera. Quindi ci sono una serie di altri paesi nell'area, ma stiamo parlando di paesi distanti, dove non sono registrati casi di questo tipo di influenza, che sono comunque dei paradisi caraibici che vanno benissimo e che in questo momento sono oggetto della scelta di modifica da parte del cliente in partenza, evidentemente nei prossimi giorni, così come tanti altri stanno dicendo invece di rinviare la data della partenza al momento in cui ci saranno le idee un pochino più chiare. Naturalmente tutto questo riguarda i pacchetti di viaggio. Esatto. Il problema grosso che si sta ponendo in questo momento, i numeri che lei citava prima, statistici sulla destinazione Messico, è che c'è un'ampia parte di turismo che si rivolge al Messico che non viaggia con pacchetti di viaggio, ma che viaggia prendendosi un volo per conto proprio, prenotando un albergo in loco oppure via internet direttamente da qua. È tutto legittimissimo. Ma attenzione, l'approccio delle compagnie aeree, soprattutto delle compagnie aeree di linea, in questo momento è totalmente contrario, nel senso che dice non vi sono motivi per recedere dal contratto, in quanto il trasporto è effettuabile, non è che gli aerei non possano atterrare in Messico. In questo caso si verifica un problema indubbiamente di più per il cliente, per il turista, il quale non sa come venirne fuori. Intanto ho tra l'altro un'agenzia che mi ha portato adesso la mia collaboratrice Gaia Romani, una PCOM di pochissimi, non di pochissimi istanti fa, della mattinata. E sembra che il Ministero della Sanità di Madrid abbia confermato un caso di febbre suina in Spagna, si tratterebbe del primo caso accertato di contagio in Europa, adesso ovviamente speriamo di verificarlo con tutte le dovute precauzioni, perché non vorremmo adesso a questo punto anche cominciare ad annullare i viaggi in località molto più vicine da noi. E tra l'altro, a prescindere dal Messico, c'è chi invece deve recarsi negli Stati Uniti e andare in tutt'altre località che non siano quelle appunto dell'America Latina, poi insomma il Messico definiamolo pure così adesso, ma non so neanche se siamo tutti d'accordo nel voler definire quest'area in questa maniera, ma c'è Michele da Torino che invece vuole andare in tutt'altra parte, però insomma è un po' preoccupato. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi ascoltatori. Sì, diciamo che sono preoccupato, io ho prenotato sotto Natale un viaggio per fine maggio, quindi diciamo tra poco meno di un mese, come destinazione avevo scelto New York City. Quindi ho sentito un po', adesso stavo seguendo anche i telegiornali per vedere un po' i vari casi, diciamo per documentarmi un po' sull'epidemia, ecco. E ho sentito che appunto nel Queens ci sono stati dei contagi sospetti, perlomeno, non ancora accertati, però sospetti. Ecco, io volevo capire un attimo come comportarsi. Come comportarsi, senso... certo, perché comunque lei dice giustamente, ha ancora un mese di tempo, quindi tutto sommato, anche se è un viaggio che probabilmente ha desiderato a lungo, visto che l'ha organizzato addirittura da dicembre, per cui una meta che si era prefisso già da tempo. E Michele, allora, New York io credo che possa essere considerata assolutamente una città al sicuro, andrà in un posto sicuro, non andrà in un posto appunto in cui le condizioni igieniche, New York non credo che ce ne siano, precarie. E detto questo, avvocato Calinzo, ma il nostro ascoltatore è preoccupato, come lo facciamo partire tranquillo? Sono d'accordo con il rappresentante del tour operator, quello che diceva poc'anzi, nel senso che la cosa da consigliare immediatamente è prendere contatti col tour operator tramite magari la stessa agenzia che ha venduto il pacchetto e vedere di trovare la soluzione alternativa. È un diritto del passeggero previsto tra l'altro anche dal codice del consumo e quindi può trovare quella, diciamo, che può essere la soluzione più opportuna, o spostare il viaggio oppure farlo in un'altra località più sicura da questo punto di vista. E la cosa importante che prevede il codice del consumo è che deve essere garantito lo stesso livello qualitativo del pacchetto turistico che ha acquistato il turista, quindi anzi se non ce n'è uno pari deve essere di categoria superiore e non inferiore, quindi da questo punto di vista il passeggero ha anche una garanzia. La cosa migliore è prima di iniziare a litigare vediamo se si può trovare anche perché ecco, non è un viaggio che tra l'altro la cui partenza è prevista per domani mattina. Il nostro ascoltatore ha più di un mese di tempo. Noi speriamo che nel giro di ancor meno tutta questa situazione di emergenza rientri appunto in tempi molto rapidi. Detto questo, tutte le preoccupazioni adesso sono assolutamente legittime. Alberto Corti, vuole dare qualche suggerimento anche a lei, il nostro ascoltatore di Torino che è pronto per partire per New York? Insomma, io su New York mi sentirei abbastanza sicura e partirei ugualmente. Detto questo, magari evitiamo di mangiare per un po' la carne di maiale, se qualche ristorante ce lo propone, però lei che dice? Ma certamente, nel frattempo, proprio per andare incontro all'esigenza del nostro ascoltatore, sono andato anche a guardarmi l'ultima posizione messa dalla Farnesina. Esattamente, infatti, perché quel canale lì non lo stiamo neanche suggerendo, ma direi che il primo, che è quello istituzionale da controllare, è proprio quello, il sito del Ministero degli Esteri e la Farnesina. Sì. Esattamente, viaggiaresicuri.it. Relativamente a questo, oltre evidentemente a dire che sono stati effettivamente registrati dei casi in alcuni stati, però... La chiusura, dice negli USA, l'attenzione è molto alta, ma non vi è allarmismo poiché i pazienti finora contagiati hanno tutti reagito positivamente alle terapie retrovirali. A titolo precauzionale, se colpiti da forte influenza, si consiglia di consultare il medico. Siamo, voglio dire, su una posizione molto molto più arretrata rispetto a quella che è stata manifestata relativamente al Messico. Comunque, l'importante, come diceva l'avvocato in questo momento, è dialogare e mantenersi in contatto con chi ha organizzato il viaggio, con chi l'ha venduto, e se si tratta, torno a dire, di viaggio parzialmente non organizzato, organizzato autonomamente, andare comunque a contattare i fornitori contattabili, almeno la compagnia aerea, se una compagnia aerea di linea avrà una rappresentanza in Italia, quindi tramite, e chiedere esplicitamente qual è la posizione. Penso che dal dialogo possano venire fuori assolutamente le cose migliori, soprattutto, l'ha detto anche lei, lo riconfermo, fermo, non andiamo in panico per viaggi con partenza da qui a 4 mesi, nel senso che la situazione sta evolvendo con tale rapidità, quello che vediamo oggi non è quello che vedevamo ieri, che effettivamente è impossibile andare a fare una pianificazione così a lungo tempo. Manteniamoci in contatto e vediamo soprattutto che tipo di realtà ci si manifesterà. 800 24 00 24 è il numero verde per le richieste di intervento dei nostri ascoltatori. Tra un po' recuperiamo anche Asso Travel. Altri ascoltatori ci scrivono al 349-238-6666. Io noto che in molti stavano organizzando viaggi verso gli Stati Uniti, in particolar modo per New York, e sono tutti quanti preoccupati. Siamo in località molto lontane, però giustamente la preoccupazione è legittima in queste ore. Un altro ascoltatore ci scrive, mentre Michele da Torino ci diceva che appunto era pronto a partire per gli Stati Uniti, per New York, per la fine del mese di maggio. Questo ascoltatore che invece ci scrive, con mia moglie e mia figlia di 5 anni, devo partire per New York giovedì, non devo andare, che cosa devo fare? Eccoci di nuovo a Salvadanaio. Questa mattina anche Salvadanaio esplora un po' le conseguenze di questa emergenza che si è scatenata in Messico per l'influenza da suini. E allora, volevo subito precisare una cosa. La trasmissione Salvadanaio non ha alcuna valenza scientifica, nel senso che io ho detto scherzando prima, anche perché cerchiamo di sdrammatizzare un pochino per quello che è possibile, con tutto il rispetto, questa situazione, indicando all'ascoltatore che stava andando a New York di, se questo serve a tranquillizzarlo durante la sua vacanza, a non mangiare carne suina. Ho scatenato il pandemonio perché molti ci stanno scrivendo: ma non date una corretta informazione, questa è una malattia che si contrae solo per via aerea. Lo sappiamo, non è Salvadanaio il contenitore giusto per spiegare come si diffonde questo problema. Ho detto una cosa con leggerezza, me ne scuso, non volevo mancare di rispetto a tutti gli operatori del settore, qualcuno ci sta già scrivendo, ma era come indicare all'ascoltatore: non baci sulla bocca tutti quelli che incontri, che incontra, nel senso che comunque tutte le precauzioni del caso le utilizzi se questo serve a tranquillizzarla, e magari ci metta anche questa. Detto questo, questo non significa appunto che questa malattia si contrae mangiando la carne di maiale. Vorrei non tornare più su questo punto, spero di averlo precisato nella misura giusta e nella maniera giusta. Noi torniamo invece ai nostri turisti, ai nostri viaggiatori che sono già là e che hanno ancora al momento una percezione forse non completa, o comunque non uguale a quella che si ha in altre parti del mondo rispetto a questa emergenza sanitaria. Ci sono invece molte famiglie, molti turisti che sono in procinto di partire per queste località del Messico e che adesso stanno cambiando idea. Allora, che cosa devono fare, cosa devono chiedere al tour operator al quale si sono rivolti, all'agenzia viaggi alla quale si sono rivolti, se avessero cambiato idea? Chi invece non è passato per questi canali e magari ha organizzato per conto proprio un viaggio, a questo punto come può fare marcia indietro? Che cosa perde, che cosa invece mantiene? E insomma, i punti sono molti e stamattina li stiamo affrontando con l'avvocato Carmelo Calì della Conf Consumatori e Alberto Corti, direttore di Federviaggio. Che fatica, mamma mia. E allora sentiamo un altro ascoltatore, Luca da Savona, che addirittura credo stia prenotando per quelle località il suo viaggio di nozze. Luca? Sì, esatto, buongiorno a tutti. Guardi, volevo appunto un consiglio: noi siamo in partenza il 16 giugno, quindi tra un mese e mezzo, per 7 giorni in Florida più 7 in Messico. Mm-hmm. Abbiamo una bambina di 2 anni e volevamo sapere appunto come affrontare questa emergenza, se era il caso appunto di disdire adesso o di aspettare, se avevamo appunto... avrò appunto un consiglio su, certo, Luca, su quanto fare. Noi abbiamo già dato qualche indicazione all'inizio della trasmissione. Volevo chiederle, lei che si è rivolto per organizzare il suo viaggio ad un tour operator? Un'agenzia di viaggi di Savona che si è messa in contatto appunto con i vari tour operator. Luca, abbiamo già confermato voli più alberghi, quindi certo, appunto, se andiamo incontro a qualche... Esatto, se recedo dal contratto, le dice che cosa ci perdo, come posso organizzarmi in maniera alternativa. Risentiamo di nuovo Alberto Corti di Federviaggio. Il nostro ascoltatore credo che abbia tutto il tempo per poter o scegliere una nuova destinazione qualora l'emergenza di questi giorni lo preoccupi fuori misura, in sostanza. Oppure, insomma, fino a quanto tempo può ancora resistere e monitorare l'evoluzione della situazione ed eventualmente decidere di non partire per queste zone, Corti? Sì, in questo caso abbiamo a che fare con un viaggio più particolare del classico soggiorno su una spiaggia messicana da Nuovo Yucatan, perché abbiamo sentito che si tratta di un Florida più Messico, sì, quindi un viaggio costruito sostanzialmente ad hoc. Allora, su questa base quello che è opportuno consigliare è manifestare evidentemente le preoccupazioni, ma è già stato fatto, all'agenzia e di conseguenza al fornitore relativamente alla destinazione. Abbiamo una data di partenza del 16 giugno, quindi abbiamo del tempo disponibile. Metterei un ordine di una decina di giorni, poniamo 2 settimane da qui fino al momento effettivo, per poter eventualmente recedere o cambiare la destinazione, premesso che in questo caso cambiare la destinazione diventa un po' difficile, proprio perché è un viaggio combinato, quindi più complesso nel suo insieme. Io credo che con la velocità con cui stanno arrivando le notizie noi avremo da qui a 10 giorni una panoramica completamente diversa della situazione, di conseguenza anche il cliente potrà scegliere, anche il signore con cui stiamo parlando parlando potrà scegliere con molta più tranquillità quello che intende fare. Resta comunque valido tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, che evidentemente non viene meno in questo caso. Quindi il venir meno dell'interesse cosiddetto creditorio, vale a dire a riscuotere la vacanza che si è pagata di fronte a una situazione di non tranquillità per la vacanza stessa, come fissato dalla sentenza Corte di Cassazione 16.315, è una panoramica completamente nuova che fa prevalere l'interesse all'interno di un contratto rispetto al contratto vero e proprio, cioè al pezzo di carta. Quindi ne siamo pienamente coscienti tutti quanti. Allora, tra l'altro, continuiamo, come ho già detto prima, così un po' a commentare, a cercare di individuare le soluzioni giuste, se ce ne fosse bisogno, per questi ascoltatori che ci hanno chiamato e che in realtà partono fra qualche settimana. Ma come dicevo, c'è chi magari è in procinto di partire nel giro di pochissimi giorni e qua ovviamente la situazione da gestire è un po' più problematica. Adesso arriverò anche a questi, ma vorrei sentire anche Carmen da Torino. Vi ricordo il numero verde per intervenire questa mattina, è l'800 24 00 24, ma ci potete anche scrivere, tutti ascoltatori arrabbiati perché ho detto insomma che si trasmette in maniera errata l'influenza da suino, e ci potete anche scrivere appunto al 349 238 6666. E allora Carmen, buongiorno. Buongiorno. Io non mi riferisco ad un viaggio che ha dovuto essere annullato per un discorso di salute, se vogliamo, ma per un discorso di pericolo per quello che riguarda la località. Mi riferisco a Londra, quando c'è stato praticamente questo l'attentato. Esatto. L'anno successivo noi abbiamo prenotato, io e una mia amica abbiamo prenotato un viaggio Torino-Londra, Londra-Edimburgo e ritorno, e 12 giorni prima della partenza ecco che la notizia salta fuori che sembrava che la polizia inglese avesse scoperto che stavano veramente di nuovo cercando di combinare qualche cosa per mettere in subbuglio la città. Io avevo prenotato questo viaggio con Cisalpina Tour e Cisalpina non ha voluto assolutamente venirmi incontro. Neanche senso... lei aveva proposto eventualmente un cambio di destinazione, certo, Carmen. Io avevo detto siccome il problema importante era quello di andare a Edimburgo, prima di tutto dico cancelliamo per quest'anno, lasciamolo, io questo viaggio lo voglio fare comunque, quindi lasciamo stare il tutto, lo rimandiamo decisamente all'anno prossimo. Sì. No, assolutamente non è possibile tenere in sospeso una cosa del genere per così tanto tempo. Ho detto benissimo, allora io posso andare, andiamo in Grecia, andiamo da qualche altra parte. No, non va bene neanche così, non l'ho neanche sentito Cisalpina. Niente, quindi Torino, in sostanza detto... lei lo ha perso quindi, Carmen. Sì, perché praticamente ci hanno dato quello che hanno voluto, anche il discorso dei trasferimenti degli aerei per esempio, soltanto il Londra-Edimburgo 70 sterline di volo, e poi anche il soggiorno, perché praticamente avrebbero dovuto essere 10 giorni in tutto e per tutto dove noi saremmo andati e saremmo tornati. Quindi diciamo che se uno ha speso, aveva pagato io 1000 euro e la mia amica che arrivava da Roma 1300, lei ha avuto praticamente 300-400 euro di ritorno e io ho qualcosa di più, perché l'aereo Torino-Londra e ritorno l'avevo pagato per conto mio, quindi quello quindi la Ryanair me l'aveva praticamente accreditato, ho potuto poi quindi, farlo. No, quindi mi scusi dopo. Carmen, allora non ho capito, quindi è stata parzialmente risarcita lei per il viaggio che non è andato a buon fine? Ma diciamo che io non avrei voluto che mi avessero dato dei soldi indietro, io avrei voluto che mi avessero tenuto, che avessero tenuto i soldi, che mi avessero tenuto valido il viaggio per una destinazione diversa in quell'anno lì, perché era poi fine agosto. Ho capito, Carmen, oppure sì. Avrei voluto che l'avessero tenuto per l'anno successivo tale quale, così com'era. Carmen, non ho capito. Hanno detto di no. Carmen, sentiamo cosa ne pensano i nostri ospiti. Detto questo, l'attentato è una situazione particolare, l'emergenza in Messico ha un'emergenza di un'altra natura, lo tsunami in Thailandia era ancora un'altra cosa. Volevo adesso, prima di sentire l'avvocato Calì, tornare ad Alberto Corti per i tour operator. Chiaramente ogni emergenza ha una sua dinamica, ha determinate conseguenze, quindi anche nell'eventuale richiesta di risarcimenti da parte dei viaggiatori, le prassi sono diverse. Cosa ne pensa del caso che ha ascoltato dalla nostra ascoltatrice? Sì, esatto, io non voglio soffermarmi molto su quello che era in quel momento la notizia, quindi stiamo parlando di una ipotesi di ricrudescenza, esatto, di rischio terroristico dopo quello che era stato invece il fatto avvenuto a Londra precedentemente. Però ho ascoltato con estrema attenzione quello che diceva l'ascoltatrice. Il viaggio, come da lei descritto, è di fatto una sommatoria di servizi che sono stati intermediati dall'agenzia, nel senso che la viaggiatrice parlava di un viaggio di una determinata compagnia aerea, dopodiché parlava di servizi prenotati in loco. Allora, lì ci troviamo di fronte a una situazione, torno a dire per quello che mi è stato dato di capire da quello che è stato detto, in cui non c'è un organizzatore, ma abbiamo una intermediazione di uno o più servizi separati, per cui il volo, nel caso specifico, mi pare sia stato comprato in proprio direttamente dal viaggiatore, è stato prenotato in loco una bagaglia. Allora, questo non voglio fare il giuridico in punta di penna, per l'amor di Dio, però mi sembrerebbe che siamo un po' al di fuori del campo classico del pacchetto di viaggio. Mi rendo conto che per chi viaggia alla fine dei conti il risultato può essere matematicamente lo stesso, però a monte ci sono dei processi diversi. Tanto è vero che le sentenze citate anche prima dall'avvocato si riferiscono non a caso a viaggi e vacanze tutto compreso. Allora poi magari sentiamo l'avvocato e cerchiamo di capire come dal punto di vista delle associazioni dei consumatori ci si sarebbe comportati nei confronti di una richiesta come quella avanzata da Carmen, a cui il viaggio non è andato a buon fine perché aveva un oggettivo problema di ordine emotivo, non voleva ritornare a Londra visto che c'erano appunto degli allarmi che erano stati lanciati da Scotland Yard, eravamo reduci insomma dall'attentato eccetera, e sentiremo appunto, vi dicevo, l'associazione dei consumatori, e poi vorrei anche sentire molto volentieri Gianluca dalla provincia di Asti, che giustamente sottolinea insomma tutta la fobia che si sta scatenando è fuori luogo, e allora ce ne faremo poi argomentare queste sue convinzioni. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, intanto ci ha raggiunto Francesco Granese, direttore di Asso Travel. Dottor Granese, ben trovato tra di noi. Buongiorno. Abbiamo avuto qualche problema per il collegamento con il vostro presidente. Detto questo, adesso vengo a lei. Eravamo però in procinto di commentare un caso che è capitato qualche tempo fa ad un'ascoltatrice da Torino che voleva andare a Londra nel periodo in cui si è consumato il terribile attentato alla City. Poi l'allarme insomma si era esteso e quindi lei ha voluto rinunciare a questo viaggio, ma ha avuto qualche problema, essendo un viaggio un po' più complicato, la cui organizzazione non era stata demandata ad un tour operator per essere risarcita. Avvocato Calì, un commento rapido sul caso della nostra ascoltatrice, poi sentiamo anche Gianluca D'Asti. Ma bisogna distinguere appunto se l'ipotesi del pacchetto turistico o meno. In ogni caso il criterio di riferimento è quello di stabilire se il turista ha acquistato i singoli servizi o tutto il pacchetto prima dell'attentato, perché è chiaro che se ogni singolo contratto, ogni singolo acquisto è stato fatto prima che intervenisse l'attentato terroristico, è chiaro che la posizione e l'attesa del turista era diversa. Se l'ha acquistato dopo non può invocare. In ogni caso io ritengo che per esempio nell'ipotesi di pacchetto turistico, ma anche per quell'altro ascoltatore che doveva partire dopo 2 o 3 giorni, la cosa che bisogna controllare per primo è se nel contratto di acquisto del pacchetto turistico è stata prevista una polizza assicurativa che spesso copre questo tipo di situazioni che intervengono e che potrebbe in qualche modo tenere indenne il consumatore da quelli che possono essere i danni che potrebbe. E se scoprisse che questa copertura assicurativa non l'ha fatta, avvocato Calì, il nostro ascoltatore, che cosa fa secondo lei? Ci può essere, purtroppo è una cosa non obbligatoria ma facoltativa, però c'è un obbligo di informazione da parte delle agenzie di viaggio, da parte del tour operator, nel momento in cui vendono il pacchetto, i servizi eccetera, devono prospettare al turista la possibilità di stipulare un'ipotesi, una polizza assicurativa che li copra da questo tipo di rischi. Allora, poi, sì. È un'ultima cosa poi che può essere utile. Perché sto quasi per quello chiudendo. Che gli accennava, per quelli che si trovano già all'estero e hanno l'esigenza di tornare, per esempio un'altra previsione del codice del consumo è che nel caso di rientro forzato a prescindere dal comportamento dell'organizzatore, vi è un fondo di garanzia che consente quindi di mettere mesi in campo tutte le risorse finanziarie perché i turisti che si trovano in paesi extracomunitari possono tornare e possono... Insomma, però sono tutte, come dire, tra virgolette, conflittualità che poi necessariamente devono attivarsi dopo, una volta rientrati in Italia. Volevo sentire Robert da Treviso e per commentare questa domanda con Granese di Asso Travel. Robert, rapidissimo, la ringrazio. Sì, buongiorno. Niente, io dovrei partire lunedì per Tulum. Sì. Ho chiamato la mia agenzia per sapere cosa devo fare, perché io cambierei molto volentieri il mio viaggio. E cosa le hanno risposto? Mi è stato risposto che per il momento la Farnesina non ha bloccato questa località e che in caso dovessi decidere io di cambiare destinazione dovrei pagare una penale. Allora, io la ringrazio Robert perché un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666 ci ha raccontato la stessa cosa. Il 10 maggio deve partire per Cancun, in questo caso il tour operator dice che siccome a Cancun non c'è rischio, se non parte deve pagare la penale. Non è possibile ottenere un'alternativa. Francesco Granese, i tour operator li ho già fatti parlare abbastanza, adesso sentiamo un po' le agenzie. Ha ragione l'agenzia a cui si è rivolto Robert, non avendo come destinazione una località al momento ancora a rischio, se la volesse cambiare deve pagare una penale? Allora, chiariamo un punto che penso sia molto importante al di là del caso specifico che state affrontando, che stiamo affrontando appunto sul Messico. Quando la destinazione diventa a rischio, innanzitutto deve diventare a rischio successivamente al contratto. Mi spiego, se oggi voglio andare in Afghanistan non è che domani posso disdire il contratto perché c'è stato un altro attentato. Beh, però l'Afghanistan è una zona... Esatto, infatti. Volevo far salva questa ipotesi. Dicevo, non lo stabilisce né il consumatore, né il tour operator, né l'ente del turismo locale, né l'agenzia di viaggio, perché è evidente che ognuno può far prevalere i propri interessi o giustamente... Senz'altro, però questa era un'emergenza del tutto inimmaginabile. Deve essere la Farnesina, cioè è un soggetto super partes, un soggetto pubblico collegato con una rete appunto che è quella diplomatica e quella anche dei sistemi di sicurezza italiani, a seconda dei casi evidentemente, che ci dice, che stabilisce che la destinazione che al momento del contratto era perfettamente, diciamo, rispondente alle esigenze di vacanza, non lo è più, che altrimenti ognuno tirerebbe giustamente l'acqua al proprio mulino. Quindi è necessario che la Farnesina dichiari quella destinazione a rischio, come ricollegandoci al caso di Londra prima, invece non è mai avvenuto, e infatti, perché può anche, purtroppo, toccando ferro, potrebbe avvenire un attentato a Roma, evidentemente l'Italia non diventa a rischio. Benissimo, qualora le località, adesso ovviamente speriamo che non... che questo non succeda e che questa emergenza, lo ribadisco, rientri il prima possibile, dottor Garnese. Qualora questa eventualità che lei sta ipotizzando si verifichi, che come possiamo tutelare comunque? Voi come tutelate i vostri clienti? È molto semplice. Nel momento in cui la destinazione diventa a rischio, il contratto non è più come dire, godibile, fruibile da parte del cliente, che l'ha sottoscritto per un fatto di relax, di divertimento, di per passare un periodo felice. Per cui il cliente ha diritto a ottenere dal tour operator un differimento nel tempo oppure nello spazio, cioè un'altra destinazione, oppure appunto a differire nel tempo e nello spazio, quindi altra destinazione, visto che è andato in agenzia, visto che si è rivolto al tour operator, evidentemente voleva fare una vacanza, o altrimenti a chiedere il rimborso del prezzo pagato senza alcun onere ulteriore. La destinazione alternativa può essere non più costosa, quindi deve essere allo stesso prezzo. Ecco, questo è il discorso. Ecco, quindi insomma, allora mi rimane un minuto di tempo prima dei saluti, dottor Granese, visto che abbiamo recuperato lei al posto di Giannetti proprio all'ultimo minuto, a lei concedo la conclusione di questo programma per dare qualche indicazione pratica definitiva, anche se di definitivo in questo momento non c'è niente, perché è una situazione in rapidissima evoluzione. Stiamo monitorando anche voi la situazione. Quindi il suggerimento per chi magari si è rivolto ad un'agenzia per fare un viaggio di questo tipo e adesso si trova nella condizione emotiva di non saper più se partire o meno, che cosa deve fare? Innanzitutto, vuol dire, quei soldi non sono persi, ecco, questa è la prima, non so, è un po' come tenerli in banca in qualche modo. Ci sono delle regole molto chiare, ci sono molte sentenze su questi aspetti. È evidente che, però, quello che voglio dire è che purtroppo, se la situazione non è realmente a rischio, la mia paura per farla prevalere devo pensare che possa avere un prezzo, ecco, questo è chiaro. Ripeto, la Farnesina non spinge gli italiani a visitare, anzi a volte per noi è anche troppo cautelativa talvolta, però non si prende chiaramente una responsabilità degli italiani in maniera, esatto, lo sbaraglio. Secondo me la chiarissima percezione di quello che sta accadendo, ma perché davvero noi, l'emergenza, esatto. Noi. è un'emergenza esplosa nel giro di pochissimi giorni. Esatto, anche noi stiamo monitorandola continuativamente per dare indicazioni alle agenzie, e le agenzie sanno che appunto le regole sono quelle che ho citato, al di là che sia Messico o altro ancora. Facciamo una chiacchierata con il nostro molto serena, con il nostro tour operator, con l'agenzia Viaggi al quale ci siamo rivolti. Monitoriamo il sito del Ministero degli Esteri per verificare qual è l'evoluzione della situazione. Speriamo anche come giornalisti di continuare a fare serenamente il nostro lavoro. Diceva giustamente Andrea Giannetti di Asso Travel in una intervista rilasciata alle agenzie proprio ieri, ma sui mezzi di informazione dice di tutto il mondo si continuano a mostrare persone in Messico con mascherine e camici bianchi, tutti allertati dal virus. È chiaro che questa situazione, anche questo modo di diffondere la notizia su questa emergenza, comporta determinate scelte, determinate paure in chi deve partire. Magari ci ritorniamo in questi giorni, sperando ovviamente di darvi buone notizie, sperando di darvi la notizia che tutto sta rientrando. Grazie all'avvocato Calì, ad Alberto Corti di Federviaggio e al dottor appunto Granese di Asso Travel. E noi di Salvadanaio torniamo domani. Vi auguro una buona giornata.